La vecchia, giuri senza più, ti penso, poco. Forza, non penso a Bob, ad ammesso qualcuno di cose, poco, però, che cazzo pisci? Che cazzo portava che tu sei scena? Che cosa, anni fa l'Olimpia passa non lavorava, la figlia passa. Quando ho parlato, facendo un po' di racchetta, tutto questo viaggio qua, Lo so che loro hanno fatto, lo so che dalla Francia sono tornati vuoti, però direttamente vuoti dall'anno fatto, direttamente, ma non mi ricordo, cioè, sì, mi pare di sì. Oh, vuoti dalla Francia, hanno caricato la sabuna, hanno fatto un locale sopra, e mo hanno caricato, Gianni ha caricato la moto dove andare io, e Barbero me l'ha detto, non mi ricordo cosa fa adesso, sì per quattro. Ah, aspetta, boh, nella rabbia. Ma loro sono andati a Vercelli però. Loro hanno caricato a Savona mi hanno caricato. E noi c'è da Vercelli. E hanno fatto un locale prima, sì, diciamo che non vuol dire qualcuna delle cose. Sono andati a Vercelli, tutti e due a Vercelli, mi pare una Vercelli e una. Va bene, dopo a Vercelli c'ho ti dumo, ma no. Va bene. Una cosa del genere ho fatto, poi da Dani Citi, io ne ci da stamattina in Rio, dovevo andare io, e l'altro, la ghetta l'ho lasciato. Castello dell'Angura, da Moda, due passi, se l'ho visto già, è vicino a Moda. Diciamo che a me sono sincero tante grazie a tu, dove andare a Rio o a Rangone, dell'altro, a me, che ne so io, ma chiamami, poi fammi andare a Rio. Io vado un po' dopo di te, ma roba da picca, dici, qui, stiamo là, dai, più o meno. Tu mi paghi di luce a Modena a sud e io a Modena a nord. Ah sì. Che fa via Emilia, da via Emilia, più o meno, che cruce che fa... Madonna, a 10 km più o meno. Ah sì. Lo so, pago Barberio stamattina, lo so. E grazie a Forza in Meg, perché io in Spagna voglio andare per i soldi, primo. Seconda, ha detto, avrò te da Francia, anche se picchi un granché, però purtroppo grazie a Maffè, quello è. Però loro hanno fatto il locale e hanno avuto qualche cosa. Ma non so secondo su, no, secondo conosceva te, come si dice, con Mega, la non so, boh. Sicuramente. Ma la rabbia che non ti chiamano per. Non ti chiamano proprio, zero! Nessuno tirando che c'aveva in pensione, allora non ti dicono cazzo, ma che fa? Dillo! Che cosa? Tiene 60 anni, quindi non è che. Ma è una macchina di un cazzo! Quello va a gordo e sarà abituato da loro così, perché quello io dico tu, ma, cazzo mi porta a modi, stendo sapendo un picchio. Ma non mi sta scendendo assai, eh? Io ho detto a Pro Tommaso, sto ma non mi sta scendendo assai a Ferrina, ma io quando ero parto mi ho tolto cosa manca all'aria, mi ho tolto a fanculo, sono buono, sono caro, però... cioè veramente non chiamare proprio, ma non chiamano più proprio, prima si chiamavano, speriamo che chi non cazzi lo fai. Aspetta che sto al telefono. Attenzione, dice. Ora attenzione sul 10, c'è qualcuno. Ora attenzione al canale 10.